Italia in controluce. È la seconda edizione di Italia in controluce, la cronaca italiana secondo Radio 24, un programma condotto da Daniele Biacchesi. La prima storia riguarda il rapporto tra alcol e minori. Da Genova, Andrea Ferro. Lo sballo è sempre più alcolico, tracima precocemente tra bambini che stanno diventando ragazzi, 13, 14, 15 anni, maschi e femmine. Birra e superalcolici si incanalano lungo un torrente che ingrossa il vuoto di generazioni in bilico. Istat, medici, studi e ricerche fotografano un'emergenza strisciante che spesso distrazione, impotenza e perbenismo soffocano. A Genova è successo anche questo. I gestori di un locale del Levante hanno organizzato un sabato sera particolare. Alle ragazzine che si presenteranno in legging verrà offerto un ciupito, bevanda ad alta gradazione, da bere in un sorso. Così ammicca il volantino distribuito davanti alle scuole. Quella sera all'appuntamento ci sono anche una ragazza appena più grande, abbigliata come tutte le altre, e un papà che si dice un po' preoccupato. Entrano, osservano e quando vedono il barista servire le minorenni intervengono perché sta commettendo un reato. Quella bella ragazza è una carabiniera, il papà è un capitano. Scattano le denunce, un faro viene puntato sul fenomeno abbagliando la città e scuotendo la riflessione. Il professor Gianni Testino, dell'ospedale San Martino, è il vicepresidente nazionale della Società Italiana di Alcologia. Nel nostro paese negli ultimi anni c'è stato un particolare incremento di uso di bevande alcoliche fuori pasto, soprattutto nei ragazzi al di sotto dei 24 anni, attraverso delle metodiche ormai ben note, che sono le metodiche del binge drinking, cioè bere oltre 4-5 unità alcoliche, cioè per esempio 4-5 birre, in meno di 2 ore, e questo per far andare in tilt il cervello e quindi, secondo i ragazzi, essere maggiormente brillanti nei confronti del gruppo. Assumere con regolarità alcolici per un ragazzino ha effetti pesanti su un organismo ancora nella fase della crescita, sconvolge il fisico e la mente. E questo è un dato che dal punto di vista internistico è particolarmente grave, perché nella fascia adolescenziale i ragazzi non possono metabolizzare l'alcol, cioè non possono smontare la molecola dell'alcol perché il fegato è ancora immaturo e quindi si provocano importanti danni al fegato, ma soprattutto al sistema nervoso centrale. Si è fatto il calcolo dal punto di vista neurologico che se un ragazzo al di sotto dei 18 anni si ubriaca, cioè si sballa, può ridurre la sua massa cerebrale di circa il 2%. Perché un tempo tra i ragazzi lo sballo si cercava altrove, l'alcol non calamitava l'ansia di trasgressione? Allora, cosa è cambiato in questi 30 anni? Ma in questi 30 anni è cambiato il modo di consumare la bevanda alcolica, nel senso che tutte le campagne, diciamo, di prevenzione che i professionisti della salute o anche i mass media hanno fatto comunque in questi anni sono andati a ridurre, diciamo, il consumo di alcune bevande alcoliche come il vino. Invece nel nostro paese contemporaneamente c'è stato un crescendo, un incremento dell'uso di birra e di altri superalcolici nella fascia giovanile, cioè al di sotto dei 18 anni, e quindi è cambiato il modo di consumare bevande alcoliche nel nostro paese, cioè ci siamo avvicinati a, diciamo, le tradizioni anglosassoni, tanto per cambiarci. Poi in certe famiglie scatta l'allarme, emerge la consapevolezza che il figlio ha imbucato un tunnel buio e sdrucciolevole dal quale bisogna uscirne in fretta. Ma come? Ancora il professor Gianni Testino. La prima cosa che deve fare una famiglia di fronte a un problema di questo genere è intanto mettersi in gioco, perché effettivamente quando un ragazzo si comporta dal punto di vista del suo stile di vita o alimentare in modo inadeguato, la famiglia comunque ha sempre un ruolo, deve rivolgersi a delle strutture adeguate, dopodiché il ragazzo deve essere portato in queste strutture dove non devono essere strutture che psichiatrizzano o fanno sentire il ragazzo un soggetto di serie B, ma lo coinvolgono pienamente per riuscire a raggiungere la motivazione a cambiare il suo stile comportamentale, il suo stile di vita, e tutto questo deve essere fatto in accordo, in associazione a delle stupendi gruppi di autoaiuto che sono, nel caso dell'alcolismo, Alcolisti Anonimi o i club degli alcolisti in trattamento, che sono veramente che è veramente l'unico modo per recuperare, per inspessire la motivazione. Italia in controluce. Stefano Bellotti, in arte Cisco, è stato per anni leader dei Modena City Rambles, una delle migliori formazioni di rock italiano, sia con i Modena City Rambles che in versione solista ha ambientato molte delle sue canzoni nei luoghi emiliani della Resistenza. Li racconta Italia in Controluce a 11 giorni dal 65esimo anniversario della Liberazione. Noi siamo, ovviamente, lo diceva anche il nome stesso, siamo cresciuti tutti in Emilia, zone molto radicate con una cultura molto forte, dove la presenza, diciamo così, la cultura della resistenza dei partigiani è sempre stata molto presente. E io mi ricordo semplicemente da bambino, la mia esperienza personale, da bambino non mi raccontavano le favole, mi raccontavano le storie dei partigiani, mi portavano in giro per la mia città che era Carpi, mi raccontavano cos'era accaduto in un posto piuttosto che un altro, dove ancora ora ci sono i centri commemorativi, e io crescevo con queste storie, quindi crescevo con l'idea che l'Italia in un periodo storico ben preciso si era ritrovata unita a combattere il nemico invasore, i traditori, via discorrendo, sotto un'unica bandiera, poi che poi all'epoca per me era quella russa, perché ovviamente la mia famiglia mi raccontava le storie dal loro punto di vista, e questa cosa a me ha segnato molto la giovinezza, diciamo così, l'adolescenza. Quindi io sono cresciuto con un concetto di società e di paese che era forse un po' deviato, me ne sono reso conto molto successivamente, ma io credevo che l'Italia fosse più o meno tutta così. In realtà ho scoperto che non era affatto così, e probabilmente anche che le storie che mi raccontavano erano un po' troppo condite a volte. Mantenendo questo punto di osservazione un po' più maturo, io sono sempre rimasto molto legato a queste storie e molto affascinato, soprattutto dal periodo storico, che è un periodo dove, se ci pensiamo bene, gente comune, gente normale, perché poi era poi quello che mi raccontavano i miei nonni, i miei zii, gente normale che quotidianamente magari faceva il fornaio piuttosto che il carpentiere, piuttosto che il contadino, per disperazione sono presi su, si sono armati di quello che trovavano e hanno cominciato una loro guerra più o meno civile, più o meno di liberazione, contro quello che allora per loro era il loro nemico. Ecco, io continuo sempre a difendere quello che è il valore istituzionale di questa cosa e in qualche modo morale, civile. Un'altra faccia del lavoro artistico, sia con i Modena City Rambles che come in versione solista, è l'impegno civile contro la mafia, contro tutte le mafie. In particolar modo è tua la canzone 100 passi, che dedicata a Peppino Impastato, che è diventata una sorta di inno generazionale. Ai concerti, agli spettacoli, vediamo soprattutto i più giovani cantarla. È vero, questa è un'altra caratteristica forte, diciamo così, che era parte del nostro gruppo all'epoca e che in qualche modo mi ha seguito, anche se qua voglio mettere un attimo, precisare, diciamo così, il nostro impegno, il nostro punto di vista anche in questo caso rimane quello di emiliani del nord, che è molto molto differente da essere invece un siciliano, un calabrese, un pugliese, un campano, che quotidianamente ha a che fare con un atteggiamento mafioso di certe persone, di certe istituzioni, e che magari si trovano le difficoltà quotidiane. È vero che la mafia oggigiorno è un problema nazionale, non è un problema regionale, è un problema nazionale e mondiale, e che noi abbiamo più intensità mafiosa noi qui in Emilia che forse paradossalmente che in Sicilia. Però è ancora una mafia diversa da quella che loro hanno vissuto quotidianamente. Allora, il nostro approccio su questi argomenti, su queste cose, continua a essere quello di emiliani, che dal loro punto di vista mettono il loro impegno, la loro forza, quello che possono fare semplicemente, a disposizione delle persone che quotidianamente lottano invece contro questo atteggiamento, perché fondamentalmente si potrebbe dire che la mafia ormai è uno stile di vita, è un atteggiamento, un modo di essere che uno sposa per vivere la propria vita in un certo modo, per avere agevolazioni anche a voi. Io ho tenuto molto a cantare queste storie perché ho conosciuto molta gente del sud, molta gente siciliana, nei nostri concerti, viaggi siciliani, ci chiedevano l'urgenza, l'appoggio, molto spesso la voce per far sentire qual era la loro, tra virgolette, la loro disperazione in certi momenti. In più, se sulla canzone A Peppino Impastato, c'è stata proprio la commozione di quando io ho visto per la prima volta il film di Marco Tullio Giordana, I 100 passi, e ho conosciuto a pieno tutta la storia di Peppino. come adesso la storia di Peppino la conoscono molti italiani, molti giovani che hanno visto il film, io come ho visto il film ho sentito il bisogno di scrivere una canzone molto semplice, che prendesse anche spunto da quello che fosse la scena principale del film, di quando Peppino prende suo fratello e contando 100 passi arriva davanti alla casa di quello che sarebbe stato il suo carnefice, e senza bisogno di capire che loro abitavano a 100 passi dal male, per loro era il loro male assoluto. Ecco, io da lì, partendo da quei 100 passi, da quella sorta, ho creato una filastrocca che è 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, che è diventato poi la canzone I 100 passi, con narrato un po' quella che è stata la storia di Peppino, una storia esemplare, la storia di, anche lì, e ritorniamo al discorso di prima della resistenza, anche lì di un uomo normale, di un uomo tranquillo, che però non si piegava, non accettava i soprusi e non accettava il fatto di dover accettare le cose per come stavano, perché la società era impostata così, lui non ci stava, lui diceva questo è sbagliato, questo atteggiamento è sbagliato e io voglio lottare. Era la puntata odierna, la seconda di Italia in Controluce. L'archivio di tutte le nostre puntate sta su www.radio24.it. Il nostro gruppo di Facebook è Radio 24 Italia in Controluce, dove potete segnalarci i temi che volete sentire, volete ascoltare. La nostra mail controluce@radio24.it. Torniamo domani alle 6.30, naturalmente su Radio 24.